Lo senti il vento? To, to. Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina? Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.